organizziamo degli incontri nella convinzione che una biblioteca, per quanto piccola, nascosta, eccetera, debba continuamente creare delle occasioni di incontro tra persone, incontri con l'autore, con le autrici, perché è sempre una comunicazione particolare, no? Si legge un libro e si fa proprio, no? C'è sempre un rapporto molto personale col libro che si legge o che si andrà a leggere, ed è sempre interessante anche conoscere chi l'ha pensato, l'ha scritto, anche perché volenti o nolenti c'è un qualcosa di autobiografico, anche se il libro di questa sera è in parte una ricerca storica, è in parte un recupero di informazioni, di testimonianze, che sono tra l'altro quelle più curiose, interessanti, no? Che si possono sperimentare. Tuttavia c'è un taglio, c'è sempre qualcosa di personale, no? L'abbiamo visto anche nel saggio, nella saggistica più spinta, alla fine viene fuori il taglio sempre dell'autore, del ricercatore. E quindi è anche interessante avere un contatto diretto con chi ha pensato e ha scritto un libro. Questa biblioteca così sposa, purtroppo, con l'esiguità degli spazi, comunque l'idea di uno scaffale aperto, cioè di lasciare alle persone la libertà, l'autonomia di scegliere, di guardare intorno a quello che c'è, perché non sempre si parte con un'idea precisa e poi spesso ci si innamora o si viene catturati e rapiti da quello che si trova esposto. Ecco, noi siamo qui, questa sera siamo solo in tre, però di solito ecco, il gruppo è un po' più nutrito, ma siamo impegnati appunto con questo polo, tecnicamente stiamo facendo delle riunioni un po' più intense, e quindi annunciavo prima che faremo fino a dicembre due incontri settimanali, ma in gennaio ecco torneremo così ad un incontro settimanale, che è comunque un appuntamento ormai fisso, è uno spazio che viene apprezzato e sfruttato, insomma, quindi l'abbiamo sempre lasciato molto libero, ci fa piacere quando vengono anche autori che abitano vicino, ecco, anche se non sono residenti, non sono del territorio, ma che ci portano delle notizie, degli altri sguardi, delle altre prospettive. Quindi do il benvenuto a Cristani Marco, a Fulman, mi scusi il nome, non Andrea, cerco, Andrea, che così hanno raccolto il nostro invito e ci fa molto piacere averli con noi questa sera. Grazie. Grazie. Allora, grazie alla Biblioteca Provinciale Italiana, Claudia Augusta, un ringraziamento e un saluto alle persone presenti in sala, che non è mai per noi una novità, sono a stragrande maggioranza un pubblico femminile. Gli editori senza le donne potrebbero andare a fare un altro mestiere. Questo naturalmente non è incoraggiante per il nostro sesso, però purtroppo è vero, cioè purtroppo nel senso che è un bel dato, ma manca molto un pubblico maschile, ecco, se non è la Gazzetta dello Sport, diciamo, oltre a quello generalmente, non tutti, ma purtroppo è abbastanza percentualmente ormai rilevato e rilevante. Noi nelle presentazioni di vario genere vediamo sempre molte donne, e questo comunque è comunque incoraggiante. E sono qui appunto a fianco Marco Cristani per, diciamo, un po' suscitare domande, interesse sul tema. Questo bel libro Foglie di tabacco, edito da Tilio Fraccaro, editore di Bassano del Grappa, che sta avendo un buon riscontro. Sembra scontato dire una cosa del genere, in realtà quasi inaspettatamente, non fraintendetemi, e nemmeno Marco, inaspettatamente, perché nonostante possa essere anche considerato un libro che riporta una, diciamo, delle storie che si svolgono in un ambito particolare, è una metafora di un mondo, quello ormai della fine dell'Ottocento, che comunque può accomunare varie realtà geografiche umane in tutta, diciamo, anche il nostro intero paese. Sapete, il termine contrabbando nel vocabolario è un reato. Oggi poi il contrabbando ha preso varie strade, dalla droga alle armi, dal contrabbando di persone, però bisogna invece fare una considerazione su questo tipo di contrabbando che veniva appunto praticato, in questo caso nel canale di Brenta, comunque non è stato l'unico luogo naturalmente, che riguardava il tabacco naturalmente, e che paradossalmente era una necessità, cioè era l'obiettivo che permetteva, la pratica che permetteva a innumerevoli famiglie di sopravvivere, di non morire di fame. Questo è un paradosso, quindi uno Stato che si è unito da relativamente poco, che impone questi dazi, questi monopoli, e che in questo modo crea, diciamo, dei disagi a cui si reagisce con l'illecito, e quindi è una materia anche moralmente molto delicata. Marco Crestani ha appunto riportato in queste pagine tutta una serie di figure che sono riportate con delle fotografie che iniziano a, diciamo, che aprono il racconto, e con la sentenza a cui questi diciamo, del processo a cui queste persone furono sottoposte. Questo è il dato in un certo senso stabile. Poi da qui parte tutto un lavoro diciamo, che riguarda lo scrittore, riguarda questa particolarità dello scrittore, della sua sensibilità, di affrontare dei temi reali trasfigurandoli, che non è un saggio, non è neanche un romanzo, è un insieme di brevissimi racconti in cui questi personaggi, anche guardandoli negli occhi, iniziano a parlare, iniziano a vivere. E questa è la grande capacità di uno scrittore, di riuscire naturalmente a chiarire a se stesso e in un secondo momento a trasmettere alle persone che leggono questi sentimenti. E faccio un'altra breve considerazione prima di lasciare la parola a Marco. Noi siamo venuti appunto per la Val Sugana, questo luogo, cioè i luoghi vengono plasmati dall'essere umano, ma i luoghi stessi plasmano l'essere umano, è una diciamo, interazione continua, una volta più che oggi naturalmente, perché passavano anche secoli prima che un paesaggio venisse plasmato. E il canale di Brenta, l'imbocco della Val Sugana, che oggigiorno è considerato una via di comunicazione, niente di più, cioè cosa fai? Prendi la Val Sugana o vai su per il Brennero o vai per... Allora diventa proprio un modo di dire vado per la Val Sugana, cioè, e vado per la Val Sugana senza rendermi conto di dove sto andando. E questo è un altro problema dei nostri tempi, no? La fretta, la rapidità degli spostamenti non ci permette spesso di guardare luoghi che sono stati protagonisti, con chi li ha vissuti, di storie alle volte anche veramente incredibili. Tra l'altro un paesaggio duro, aspro, che richiedeva da parte degli uomini una grande fatica, ovviamente per la pendenza, e che ha avuto appunto la peculiarità di essere anche molto favorito nella coltivazione del tabacco. Allora, naturalmente la prima domanda è quella, diciamo, d'obbligo: come ti è venuta questa idea di scrivere? Questa è sì, una domanda d'obbligo, ma scusate, si sente abbastanza sì. Allora, io ho sempre avuto la passione per la scrittura, poi tra l'altro ho anche fatto un mestiere che ho dovuto scrivere per forza, perché ho fatto il copyright anche nella pubblicità, quindi ho scritto, ho tradotto certe immagini, una scrittura quindi breve, essenziale, che va subito all'essenziale. Il come è nato, io dopo i 40 anni, tanti fanno delle cose pazze, io mi sono iscritto all'università e dopo aver fatto un'esperienza in letteratura ho cambiato completamente genere e mi sono rivolto alla storia, prima con un diario ritrovato, e quello è stato un primo lavoro, un emigrante veneto che parte dall'altopiano e arriva per vie traverse in Africa. Questa è stata la prima esperienza e vive le avventure più assurde, più strane, sembra quasi la sceneggiatura di un film. Questa è stata la prima tesi di laurea. Poi dico, vabbè, la pazzia forse è finita, adesso sarà ora che insomma me ne stia a casa, che faccia qualcos'altro, che prosegga con il mio lavoro. Cioè, beh, chiaramente ho continuato a lavorare, quindi studiavo, lavoravo, e ho deciso di iscrivermi un'altra volta a un'altra facoltà, che era quella di antropologia culturale, quindi legata alla storia, però più all'argomento sociale. Alla fine di questo percorso universitario c'è la tesi. E cosa scelgo di tesi? La tesi, tra l'altro, di antropologia culturale è una tesi che presuppone una ricerca sul campo, cioè bisogna andare a fare delle domande, bisogna entrare in sintonia con la gente che ha queste storie da raccontare, e io non è che ne avessi di tempo, ho dovuto trovare un posto vicino e andare a intervistare le persone, in particolare le persone più anziane, ma le persone che avevano qualcosa da raccontare riguardo a un determinato argomento. Mi ha colpito questo discorso del tabacco, perché aveva un che di quasi di mitico. Io vengo da Venezia, sono veneziano, però ho sposato una montanara dell'altopiano di Asiago. Avevo letto Storie di Tölle di Mario Rigoni Stern, come altre cose di Mario Rigoni Stern, e ricordavo Mario Rigoni Tölle che scendeva dall'altopiano, scendeva in Valsugana, poi prendeva la strada del Tesino o dell'Austria per andare a vendere quello che capitava, anche a contrabbandare, era in un certo modo un contrabbandiere. E così, facendo domande, cercando tra la gente, sono emerse queste storie umane legate, diciamo, al territorio, ma anche non, perché la cosa che mi ha colpito è stato il periodo storico in cui ho raccolto queste storie, ed è un periodo storico molto particolare, perché va dal 1866, che è un anno critico per il Veneto, perché il Veneto rientra a far parte del Regno d'Italia, prima era sotto l'Austria, e a circa il 1895, che anche lì succede qualcosa di particolare, succede qualcosa di eccezionale. La grande emigrazione, queste persone vanno via, cercano l'America, cercano il vapore, cercano di scapparsene da quei posti. Perché? Perché non c'era più niente, non c'era ormai più niente. C'era la pellagra, ecco, quella sì, quella c'era. E così ho deciso di rivolgere la mia attenzione, la mia tesi era su tutt'altro argomento, era sulla economia della frugalità del canale di Brenta, quindi questa gente che viveva con poco, ma con quel poco che aveva faceva delle cose straordinarie. E cercando a fondo nella storia di questa valle, ho incontrato questa economia del tabacco. Ho visto che c'erano enormi quantità di terrazzamenti, che loro li chiamano masiere, più di 250 km di terrazzamenti in 20 km di valle, piccole città, pozzi, scale, tutto nascosto ormai dal bosco, perché non si vede più nulla, sì, se non nel centro, più o meno Valstagna, quelle zone lì. È un po' abbastanza emersa questa, o nel conoide di San Gaetano, che è un po' più avanti, però gran parte del tesoro era nei boschi. E allora ho camminato, visto, ho approfittato anche del fatto che era stata appena aperta una via che si chiama Alta Via del Tabacco dal CAI, e ho cominciato a percorrere a tratti, e ho visto che c'era un tesoro nascosto, queste case enormi, questi muri a secco, quindi senza cemento, quasi delle cattedrali nascoste. Ho scoperto che risalivano al Settecento, perché la Repubblica Veneta, Venezia, dal Settecento in poi istituisce il monopolio, e ho scoperto storie incredibili di gente normale che faceva cose eccezionali. E così ho raccolto un po' da una parte, un po' dall'altra, i vari sentimenti, e ho cercato di ricordare queste persone, che tra l'altro, ironia della sorte, non sono nemmeno ricordate da delle fotografie. Le fotografie che ho inserito nel libro sono fittizie, sono sempre della zona del canale di Brenta, però risalgono dopo il 1890, intorno ai primi del Novecento, perché cosa che inventa la pellicola intorno al 1890. Quindi questa gente non è potuta neanche essere ricordata da fotografie, probabilmente neanche da certe dalle tombe ormai non esistono più. Quindi mi ricordavo una sorta di Spoon River di Masters, che così è descritto bene. Questa gente dimenticata, queste anime perse che ogni tanto venivano fuori, E così, in modo abbastanza empatico, ho deciso di mettere, ogni tanto mettevo qualche pensiero di qualche storia che raccoglievo. E un po' alla volta, dai vari dispacci così del tribunale, è nato, sono nate storie organiche, diciamo, con un comune denominatore che era quello che è quello del tabacco. Ma non solo, non c'era solo il tabacco, c'era molto altro. C'erano sentimenti, storie, presagi, storie di magia, come tutti i luoghi, io penso, no? Cioè, se ci si ferma in superficie non ci si accorge di quello che c'è dietro. E quindi ho raccolto delle storie. Scusa la lunghezza. Allora, visto che parliamo di storie, adesso io ne leggo una intanto. Ho aperto un po' a caso, nel senso che sono racconti molto brevi, non la brevità non significa ovviamente un limite, anzi tutt'altro, essere brevi ed essere efficaci non è facile. E devo appunto affermare che la scrittura di Marco Cristani è un'ottima scrittura. Beh, per forza sei qua, quindi devi dirlo per forza. No, non sono professionista, io se non avessi avuto come dire, un sentimento di apprezzamento non sarei qua, sinceramente. Non, ecco. È una scrittura abbastanza, cioè, che ha una sua, un suo ritmo interno, è una sintassi abbastanza incalzante ma morbida, non metallica, non urtante. E descrive attraverso anche molti riferimenti a quello che circonda i personaggi, quindi anche la natura, questi stati d'animo, questo compenetrarsi tra natura e stati d'animo. Appunto citavamo un grande di questa tipologia di scrittura che è Mario Rigoni Stern. E quindi indubbiamente oggi si scrive tantissimo, a volte bene, più volte purtroppo male, devo essere sincero fino in fondo. Anche tanti libri di grande successo, sinceramente non vedo, perché ci vuole un po' il palato fino, bisogna essere dei lettori abbastanza, come dire, con la pelle dura, perché questo mondo della scrittura sta diventando anche qui un grande business, sta diventando un, scusate la leggera vena polemica, ma lo faccio con molta serenità, sta diventando qualcosa che richiederebbe da parte dell'utenza, da parte del lettore, una sorta di resistenza su quello che è lo scrivere. E le biblioteche sono importantissime, perché ovviamente una persona può farsi un'idea di questa lettura e poi eventualmente si compra il libro. Cioè, è inutile riempire gli scaffali di casa di libri da 40-50 euro che poi non verranno mai più toccati per il resto della vita, o addirittura neanche letti. Questo episodio è sentito del segnale convenuto, è riferito a Vanin Antonio, fu Adamo, 64 anni, vedovo, 4 figli, accusa di contravvenzione all'articolo 27 della legge sulle privative per essere stato trovato in possesso in casa il 19 febbraio 1872 di 100 grammi di tabacco lavorato, sentenza il 26 novembre 1872, assoluzione. Beh, l'ho detto in altre occasioni, ho notato adesso si parla anche di momenti molto duri nel contrabbando, anche di scontri a fuoco, di fughe, di incidenti. Devo dire che sono molte le assoluzioni, quindi diciamo che c'era anche un'indulgenza da parte della legge, quindi anche qui bisognerebbe aprire un capitolo anche sui stessi giudici che verificavano questi casi e che probabilmente molte volte sapevano bene con chi è che avevano a fare, non con dei criminali ma con delle persone che appunto erano in un certo senso obbligate. Se esistono luoghi peggiori di quelli nei pressi del canal di Brenta, io non li ho ancora visti. Di solito quando fischia il vento nel bosco si hanno sempre dei punti di riferimento per orientarsi, voglio dire certi spiazzi dei vecchi alberi o i corsi d'acqua che uno risale o discende o attraversa secondo i casi. Qui nel canale di Brenta non è così. Le montagne si elevano fitte tra loro e il vento, soffiando, gira su se stesso a formare dei turbini. Perciò la pioggia, portata dal vento, colpisce gli alberi da tutte le parti e non lascia crescere il muschio sul fianco nord del tronco, come avviene di solito. Il nostro cammino per tutta quella giornata fu un cammino da serpente, di precipizio in precipizio, di gola in gola, di pendio in pendio. Gli uomini si allontanavano ogni momento in cerca di selvaggina e bisognava sorvegliarli e richiamarli di continuo. Mangiavo l'avanzo del pane, bevevo ogni ruscello e avevo l'orecchio teso alla baiara dei cani. Avevamo piedi coriacei e scarponi consumati, per cui non temevamo le vesciche. Eravamo tutti abituati a fare lunghi tragitti a piedi, ma a me sembrava che si andasse senza meta, e sia per la lentezza di quell'andare che per l'ululare del vento e per la tristezza che mi opprimeva, ero pieno di irritazione e di inquietudine. A ogni tratto credevo di sentirmi qualcuno alle calcagne. A un certo punto, quando eravamo vicini al luogo dello scambio, la cima di un albero si mise a tremare in modo insolito. Si intravedeva un uomo con una scure e dopo ogni colpo si sentiva un leggero scricchiolio. L'albero tremava tutto e per un momento tutto tacque. Poi in un attimo il tronco si piegò all'improvviso e si sentirono altri colpi e l'albero si abbatté con la cima sulla terra umida. Era quello il segnale convenuto. Ecco, la scrittura, Marco, tu, sì, come penso tutti coloro che scrivono, fai anche un lavoro di cesello, un lavoro di rivisitazione, magari qualche pagina dei tuoi la strappi e la butti via, insomma, com'è il tuo laboratorio di scrittura? A tutti noi credo che abbiamo una stanzetta in cui ci rifugiamo. Spesso non è possibile perché quando si cominciano ad avere due figli, adolescenti, problemi di lavoro, eccetera, è sempre più difficile trovare dei tempi in cui scrivere. Quindi si scrive o la notte o nei momenti liberi, o ci si chiude da qualche parte, si cerca una stanza. Ecco, io ho scritto in vari momenti della giornata, quando avevo tempo, prevalentemente di notte, di sera. Comunque la scrittura è sempre stata una scrittura parola per parola. Ho tolto via tanta zavorra prima di arrivare qui, perché volevo arrivare all'essenziale, perché mi interessava poco perdermi con tante parole, perché le persone che mi raccontavano queste storie erano persone di poche parole, persone semplici che non avevano avuto l'opportunità di descrivere questi sentimenti, probabilmente non avevano mai avuta. Io ho cercato di descrivere al posto loro certi sentimenti, certi, una sorta di empatia, no? Di scrittura storico-empatica, diciamo, no? Ho quasi dialogato con dei fantasmi, perché leggendo le storie, vedendo la storia, la leggi anche nei boschi, nel modo, appunto, nel paesaggio. E soprattutto non era facile descrivere i sentimenti. Quello è stato lo sforzo maggiore, perché credo che sia, sì, la descrizione fisica degli ambienti probabilmente mi è venuta abbastanza spontanea, però la descrizione di certi sentimenti non è stata facile, anche perché poi, a proposito di donne, la maggior parte delle protagoniste sono donne, perché in Canal di Brenta c'erano uomini e donne, il contrabbandiere tipo è uomo, ma c'erano anche le donne che comandavano, le donne che lavoravano, perché erano le donne a lavorare. Gli uomini spesso fuggivano o cercavano l'avventura oppure cercavano qualche scambio in qualche montagna, oppure con la scusa di andavano, che ne so, a Praga. C'è gente che è scappata, che non è più tornata. Quindi era una società matriarcale in un certo modo. E descrivere le donne, descrivere i sentimenti delle donne non è stato facile. Ho fatto appello alla parte femminile che c'è in me, probabilmente, come tutti credo abbiamo, e ho cercato di metterla per iscritto. Magari volevo leggere anch'io un qualche cosa, perché certo, penso che solo leggendo ci si immerge in quei tempi. Ed è l'ultimo uomo, poi leggeremo delle donne. Leggeremo una breve storia d'amore, e una magari dopo, e una piccola di una qualsiasi. Colpo Michele, domiciliato a Grancone di Barbarano, Vicenza, Sarto. Quindi Barbarano è molto più lontano, verso Vicenza, verso i Colli Berici. Questo probabilmente ha fatto un po' di strada per essere venuto qui a contrabbandare. Però viveva in Canal di Brenta. Accusa di contravenzione all'articolo 27 della legge sulle privative, per essere stato trovato in possesso il 21 maggio 1868 sul cimo di Valstagna di chilogrammi 4,200 di tabacco da fiuto. gran parte del tabacco del canale di Brenta era da fiuto, perché si fiutava il tabacco, si masticava, oppure veniva mescolato e si faceva il toscano, il sigaro. Sentenza del 29 maggio 1872, multa fissa di lire 51,20 di proporzionale. Il disgelo arrivò lentamente. Una mattina l'aria si fece più calda e la mattina seguente più calda ancora. Di giorno i ghiaccioli che pendevano dal bordo del tetto brillavano sciogliendosi al sole. Di notte Michele dormiva nella baracca al suono intermittente del gocciolio della neve che si scioglieva sul tetto. Per tutto il giorno si era sforzato di rimanere calmo, di mantenere controllo, almeno apparente, e c'era riuscito. Ora poteva dimenticare, almeno per un po', quanto aveva sofferto là fuori, con i piedi che gli sembravano ormai due pezzi di ghiaccio, le mani che gli dolevano fino alle ossa per il freddo e il corpo tutto rattrappito attorno al tepore del cuore. Solo lì adesso, in quella baracca, poteva dormire sereno e lasciare che il sonno lo portasse lontano. Aveva portato fuori diverse carghe di tabacco, tanto che pensava di continuo a come la fortuna sembrava finalmente essere passata dalla sua parte. Doveva però ancora completare una carga e solo dopo la fine avrebbe potuto incamminarsi verso casa. In quel momento, mentre il giorno si stava addormentando, era tutto silenzio intorno. Michele sospirava profondamente. La notte sprofondava nelle tenebre, anche se restava un'ultima striscia pallida all'orizzonte. La stanchezza gli era piombata addosso come senza preavviso. Provava una specie di involontaria angoscia e si sentiva percorrere da un leggero brivido. Fuori, nel bosco, accadeva qualcosa ancora. E lì, nella baracca, il silenzio fremeva di sordi bisbigli, di rumori indefiniti, rumori strani, passi strascicati, voci, andirivieni, come se al suo paese fosse mattina e il mercato stesse per aprirsi. Al chiarore di una fiamma che, bruciando alcol, oscillava su un tripode di bronzo, Michele ora immaginava solo due orecchini a forma di bilancia, con delle perle su ogni piatto che oscillavano luminosi lungo delle pallide guance di una donna con i capelli neri e gli occhi castani urlati da lunghe ciglia. Quindi, nonostante tutto, pensava a una bella donna, pensava a quello che era la vita fuori, no? Questo è un breve saggio di come poteva essere il contrabbandiere poeta, se vogliamo, non il contrabbandiere, e ce n'erano molti di quelli che venivano etichettati come persone rudi, in realtà scrivevano, avevano un diario, e ricordavano spesso, ecco, soprattutto ricordavano le persone care. Un applauso. Sì, beh, il tema, diciamo, dell'universo femminile nella letteratura è sconfinato naturalmente, però le donne come scrittrici si affacciano al mondo letterario in tempi veramente recentissimi, insomma, iniziano con l'Ottocento e prima erano solamente delle figure isolatissime. Ma però allo stesso tempo la donna è invece protagonista assoluta dei canzonieri, appunto dei poeti, degli scrittori, ma che in un certo senso la trasfigurano, la trasformano, non è una donna reale o neanche una donna del tutto immaginaria, è un modello, pensiamo solamente allo stilnovismo, che crea questa sorta di figura eterea, dietro il quale ci sono anche significati religiosi, certamente, ma che comunque è un sublime travisamento del femminile. Solo quando nell'Ottocento, soprattutto in Inghilterra, iniziano le donne a scrivere veramente, no? Abbiamo appunto figure ormai classiche come le sorelle Bronte, Jane Austen, poi Catherine Mansfield e tantissime altre, Virginia Woolf, fino ad arrivare ai tempi nostri, qui oggi la donna ha un posto di rilievo nella letteratura. E spesso l'uomo continua a rappresentare la donna, ma lo fa ancora con delle approssimazioni, secondo me, cioè non è ancora naturalmente non è facile e viceversa spesso, no? Quindi dice ma c'è una letteratura maschile, letteratura femminile, anche questa è una questione, una polemica un po' sterile, no? In realtà c'è una letteratura e basta, ci sono punti di vista, sensibilità, ma assolutamente non... Oggi comunque gli scrittori, molti scrittori si stanno entrando molto di più nell'universo femminile, cioè riescono a cogliere l'aspetto psicologico, emotivo dell'universo femminile. Ecco, Marco in un certo senso ha colto questi aspetti nelle figure femminili che troviamo appunto in foglie di tabacco, queste donne che oltre a svolgere anche l'attività stessa devono sobbarcarsi la famiglia, le anomalie, le bizzarrie magari degli uomini che hanno questa sensibilità più spiccata, e come in questo caso, in questo piccolo, questo breve capitolo Velluto Nero, hanno anche il timore di essere denunciate, ad esempio, dal stesso uomo con cui vivono o da parenti vicini. Ferrazzi Giovanna, detta Martinello, fu vittore, moglie di Pietro Negrello, 3 figli, 50 anni, altre volte punita per furto. Accuse di contravvenzione all'articolo 23 sulle coltivazioni per fraudolenta sottrazione il 20 agosto del 1868 di foglie di tabacco corrispondenti a chilogrammi 1 di tabacco. Sentenza del 31 gennaio 1872, multa fissa di lire 51 e 50 di proporzionale, ridotte il 16 marzo 1872 a 60 lire complessive che dovranno reluirsi col carcere sussidiario di 20 giorni. Quindi, dovuto andare anche in carcere. L'unica, esatto. La pioggia era quasi cessata e l'aria si era schiarita. Giovanna aveva il passo morbido e aggraziato di una ballerina, ma non riusciva a scacciare il sonno che gli pungeva le palpebre. Si passò la mano sugli occhi e fece una leggera smorfia di pena. Veniva avanti tra i rami spogli degli alberi della piazza centrale. Aveva una figura slanciata, messa ancor più in risalto dai fianchi sottili. Sembrava vestita di velluto nero e spiccava come un'ombra intensa, sontuosa. La poca luce ancora sospesa nell'aria si concentrava sui suoi capelli biondi e sul viso opaco. Le brivellavano gli occhi, le lacrime tremavano sull'orlo delle ciglia e tuttavia, di proposito, mostrava apertamente il viso. Quel suo moto di sincerità era profondo, istintivo, veemente, anche se di lì a poco, lo sapeva, se ne sarebbe vergognata. Mentre si avviava verso Palazzo Perli, notò qualcosa di insolito proprio in una casa vicino alla strada e si avvicinò alla finestra per guardare dentro. Intorno al tavolo, su cui ardevano 2 candele, alcune guardie giocavano a carte. Una le voltava le spalle e le altre 3 erano talmente prese dal gioco che non si accorsero di lei. In quel momento, mentre Giovanna era ancora nella stessa posizione, si aprì la porta e vide suo marito entrare nella stanza con una candela in mano. Era lì per denunciarla, pensò. Mi vuole vendere, o forse mi ha già venduta, disse tra sé. Si strinse nello scialle e si staccò dalla finestra. Appoggiandosi al muro esterno, si scostò i capelli dal viso e rimase a lungo, immobile. Quando si voltò, vide che era quasi buio, ma nella penombra tutto conservava il proprio colore intenso, sgargiante. La brenta era argentata e viva, il cielo era di un rosso acceso e proprio sulla linea dell'orizzonte alcune nuvole sembravano disegnare delle forme animate come di occhi e di visi. Giovanna aveva le mani ghiacciate e l'umidità pungente che la brenta sospingeva su per la riva la raggelò fino alle ossa, tuttavia rimase dov'era, bloccata, ricolma di quella vista meravigliosa e sublime. Rimase ferma in silenzio e ora i suoi pensieri parevano lentamente svaporare. Naturalmente, giustamente, Marco scrive la brenta. Sì, la brenta, uno dei pochi fumi a piumi che hanno appunto l'articolo femminile. Lo stesso Dante, appunto, nella Divina Commedia, la brenta, e non il brenta come comunemente. È stata un'idea di D'Annunzio, comunque, non quella di. È stata un'idea di D'Annunzio Dante però parla prevalentemente di... un'idea fascista quella di perché il fiume di maschilizzarlo di... maschilizzare i fiumi sono virtuosi, vigorosi, ecco. In realtà le donne tanto per cambiare secondo l'ideologia erano tanto per cambiare sinonimo di debolezza, no? Certo, cioè, così, certo. In realtà è tutto il contrario, certo. Sì, ecco, quindi questa delicatezza di scrittura e di questo universo femminile giustamente, cioè prima Marco, non è facile immedesimarsi anche in un'altra natura, e qui sta, ecco, secondo me la bellezza del libro, che insomma in certo senso, tra l'altro adesso sì, Marco ci tiene a leggere anche un episodio che riguarda invece un uomo e una donna, quindi lo lasciamo subito leggere, sì, così siamo sull'onda. Giovanni e Viola, giusto? Sì, lo dovevo alla signora, nel senso che le avevo parlato, accennato di questa piccola storia d'amore. Ecco, state attenti ai particolari, perché qui ci sono questi testi della burocrazia che sono freddi, notoriamente scritti da... sì, alle volte però volutamente troppo freddi, e nascondono qualche dell'umanità, ecco, perché probabilmente il ragazzo giovane della Guardia di Finanza, oppure l'uomo segnato da qualche disgrazia, da qualcosa, che ha in un certo modo pietà di queste persone, e si avverte questa, forse sarà perché ormai capisco molto più dalla scrittura che non dalle parole che vengono dette oralmente. La scrittura rivela molto più di quello che si crede. E c'è questa storia che volevo leggervi, che così anche per darvi un piccolo dono di dolcezza, ecco, di queste storie. Ed è la storia appunto di Giovanni e Viola. Fiorese Giovanni fu Adamo, 26 anni, possidente, incensurato. Accusa di contravvenzione all'articolo 23 sulle coltivazioni, per aver autorizzato il suo lavorante, Angelo Citton, domiciliato a San Marino di San Nazario, a raccogliere rimasugli di foglie di tabacco in un campo di sua proprietà. È stato condannato per dei rimasugli, perché aveva mandato una persona, insomma, a raccoglierli. Sentenza del 29 febbraio 1872, due punti, assoluzione. Era defunto al momento della sentenza. Giovanni conosce Viola il giorno di San Rocco, in casa di un suo cugino. Viola è di Venezia, ma la sua famiglia qui in Canal di Brenta possiede due segherie e una grande villa. Giovanni e Viola si frequentano fino alla fine di settembre, poi lei deve tornare a Venezia e lui al suo lavoro di coltivatore di tabacco. Sono legati da un'amicizia profonda, anzi, da qualcosa di più. Ciò che condividono è di una natura che non riescono a spiegare neppure con tutta la loro buona volontà. Tuttavia ne sono perfettamente consapevoli e lo pongono al di sopra di tutto. Quando sono insieme, Viola parla molto e ogni tanto nei modi di lui nota un che di schivo che le induce a pensare di non conoscerlo. Giovanni la sta ad ascoltare ed è quasi contento che lei gli dà tanto di sé, pretendendo pochissimo in cambio. Però Giovanni le dona un'atmosfera che lei fa propria, in cui indugia anche dopo essersi separata da lui. Il senso di qualcosa di giovane, di spensierato, di vivo e di tenero. Mentre lavora tra le masiere, il solo pensiero di Viola fa desiderare a Giovanni di essere migliore. Per lui è una sensazione nuova, perché non ha mai conosciuto una donna che lo abbia reso migliore in modo così naturale e vero. Un giorno, dopo essersi alzato di scatto, va a vedersi nello specchio che ha sopra il lavamano. Passa un asciugamano e si guarda di nuovo, a lungo e attentamente. Pensa a come i suoi occhi, fino a quel momento, hanno visto solo le masiere del canale. Vede il volto di un giovane di 26 anni, con una folta massa di capelli bruni, un accenno di riccioli, con al centro una strana e sorprendente chiazza grigia. Si domanda come Viola lo consideri. E mentre si guarda, sente che qualcosa lo turba. Pensa che c'è qualcuno che si lava i denti tutti i giorni. È gente superiore, gente della classe sociale di Viola. Gente che conosce solo da lontano, attraverso una cancellata di ferro oppure una loggia di vetri a forma di rettangoli rombi. Anche Viola si deve lavare i denti tutti i giorni, pensa Giovanni. Cosa avrebbe pensato di lui se avesse saputo che, da quando è venuto al mondo, non se li è proprio mai lavati i denti? Decide, in quel momento, di procurarsi uno spazzolino da denti e di prendere questa abitudine. Avrebbe cominciato subito. Dal giorno dopo. Solo così poteva sperare di conquistarla. Sì. Ecco, questo dimostra appunto la scrittura, se diciamo di livello, che scaturisce da una passione, da un'esigenza, porta veramente a immedesimarsi, a riconoscersi anche in queste piccole cose, lo spazzolino da denti, così, che lega queste due persone. E naturalmente, se noi conoscessimo le persone di cui parliamo, probabilmente non avremmo sempre in simpatia, non è detto che il contatto diretto, però questa distanza, e qui il discorso ovviamente andrebbe su cose molto, molto complesse, la distanza tra chi scrive e i suoi personaggi, reali o immaginari, colma queste separazioni, queste lontananze, le colma in un'atmosfera molto particolare che potremmo definire veramente spirituale. Cioè, la letteratura è qualcosa di spirituale, nel senso anche laico del termine, se vogliamo, cioè è qualcosa che smussa tutti i difetti, tutta la quotidianità, tutti gli aspetti anche di antipatia reciproca, tutto ciò che ci ostacola a trovare l'essenza delle altre persone. Naturalmente, oserei dire, sarebbe questo un salto di qualità. Dovremmo forse, dalla letteratura e da questa vastità di possibilità, trarre un'esperienza anche che ci porta nella vita di tutti i giorni a essere in certo senso migliori anche col nostro prossimo. Quindi non la letteratura solo come chiusura in un mondo astratto di simboli, di simulacri, ma qualcosa che deve essere vivo, vitale, reale. Ecco, io cito ancora, perché noi abbiamo avuto anche una bellissima esperienza il 16 giugno, abbiamo fatto ad Asiago per la prima volta, pensate, sull'altopiano di Asiago, una lettura pubblica nella chiesa di San Rocco di Mario Rigoni Stern, tutta la famiglia presente, con gli stacchi di arpa, 11 persone, tra cui professori universitari. Insomma, è stata veramente una giornata straordinaria, perché Mario Rigoni Stern, in effetti, abbiamo intitolato Letteratura Vivente, perché la letteratura di Mario Rigoni Stern, lui, non solo lui naturalmente, ma è qualcosa di vivo, cioè qualcosa che ha un aggancio con la realtà. È trasfigurazione, è la magia della realtà, no? È come diceva la grande poetessa americana Emily Dickinson, insomma, l'invisibile è il visibile rivelato, un aforisma semplicissimo ma che dice tutto, no? Quindi, e questa è la grandezza della scrittura. E quando si riesce, anche se non si vincerà il premio Nobel o si arriverà, si andrà in Italia, no, il Rai, si è andato in Rai poco fa, quindi già qualcosa di diverso. È questo rapporto diretto, questa triangolazione tra lo scrittore, il lettore e i personaggi, è qualcosa di strano. Guarda che parliamo di spiritualità, parliamo di invisibile, guarda che la letteratura è rendere appunto visibile l'invisibile, è qualcosa di bellissimo questo, no? Allora, io leggo l'ultimo brano, ricordate, qui una donna, Sotto i rami. Puntarolo Lucia fu Giacomo, 57 anni, moglie di Tommaso Gheno, 8 figli, incensurata. Accusa di contravvenzione dell'articolo 23 sulle coltivazioni, cioè 8 figli, ma un criminale, no? E gli articoli 27 e 28 della legge sulle privative, per essere state trovate in casa il 24 settembre del 1869, 128 foglie di tabacco di chilogrammi 0,1 dentro il cassone del focolare e un cartoccio nascosto in un armadio chiuso a chiave con tabacco in polvere. Vennero trovati inoltre all'esterno della casa due involti contenenti tabacco semi preparato, frammisto a cortecce di stello, e ancora due grossi vasi nascosti in una grotta alla distanza di 20 metri dalla casa, con tracce di tabacco in polvere. Sentenza del 28 febbraio 1872, multa fissa di lire 51 e 30 di proporzionale. Quindi anche i luoghi in cui nascondevano tutti questi corpi del reato. Il cielo era una specie di vetro colorato, rosso pallido, giallo, verde o azzurro, a seconda del punto in cui lo si guardava. Lucia poteva osservare gli alberi ai margini delle masiere. Erano alberi alti, scossi da improvvisi fiati di vento, con il tronco sottile e le fronde piumate. C'era gioia e fremito di vita. C'erano stormi di uccelli, forse merli o stormi, che volavano come mossi da un'energia comune. Improvvisamente Lucia si ricordò che gli uccelli fanno così in agosto, quando cominciano a radunarsi per preparare il grande volo verso sud. Sopra una masiera dismessa c'erano lunghi steli d'erba e tre meli, l'avanzo di un vecchio frutteto. Due erano bassi e curvi, e l'altro abbastanza grande, quasi come un faggio adulto. Nessuno li potava né irrorava mai, perciò le mele erano tanto misere che non valeva nemmeno la pena di rubarle. Ma quasi ogni anno la fioritura era ricca e c'erano fiori di melo ovunque, al punto che da una certa distanza i rami sembravano coperti di neve. A Lucia piaceva mettersi sotto quei rami, sdraiarsi con la testa appoggiata al tronco e guardare su, fino in cielo. Il vento passava il petto nelle cime degli alberi e si sentiva uno strano mormorio che la incantava. Sentiva una specie di solennità in quel luogo. Era quasi come genuflettersi in chiesa, come farsi il segno della croce e ginocchiarsi nei primi banchi di fronte all'altare. Marco, vuoi concludere? Posso concludere con un altro piccolo racconto, che è sempre femminile, che un po' dà l'idea della magia, insomma, che si respira anche sotto la superficie, andando di qua di là e ad ascoltare le persone. Maschio Maria fu Antonio, 22 anni, questa è una giovane, però una giovane che ha delle qualità particolari. Moglie di Giovanni Vanni, illetterata, incensurata, questo ricorre. Accusa di contravvenzione, l'articolo 27, eccetera, eccetera. Il 19, perché trovato in possesso, il 19 febbraio 1872, nella propria abitazione, di 100 grammi di tabacco lavorato. Sentenza del 26 novembre 1872. Assoluzione. L'imputata si era difesa affermando che il tabacco le era servito in quanto sofferente per avanzata gestazione. Questo capirete poi che è una bugia, probabilmente, del racconto. Maria è alta e ha una faccia semplice che pare emanare gentilezza, intelligenza e una totale generosa comprensione. Maria, nonostante l'età, è esperta a stirare e a scegliere le foglie essiccate di tabacco. Per stenderle bene, si sa, è necessario saper tendere in un certo modo le mani e soprattutto ascoltare con i polpastrelli delle dita. Maria ha molta cura delle sue mani. Le dita sono grosse, ma c'è qualcosa di sensibile e aggraziato in quelle mani tese a stirare quelle grandi foglie accartocciate. Ci vuole attenzione, tanta attenzione. Dopo la fermentazione le foglie sono più fragili e spesso devono essere di nuovo umidificate per evitare che si rompano. Le foglie che si raccolgono dal centro della pianta sono più aromatiche e fragranti. Quelle della parte superiore, le più esposte al sole, sono cariche di oli e si seccano male. Quelle esterne sono le più sottili e le più delicate. Maria sa che le foglie sono soggette a ripetuti sbalzi di umidità ed è stata educata a riconoscerle e a dividerle in base a qualità e posizione sullo stelo. Ha un talento speciale però, Maria, che tutti le riconoscono, e vede anche ciò che nessuno può vedere. Per lei la natura è un tempio sacro, un rifugio confidenziale in cui tutto si muove e muta. Tutto è fisico, anche l'oggetto più spirituale. Sta alzata fino a tardi, Maria. Spesso sogna ad occhi aperti e quando sogna vede con chiarezza trasparente le figure e le scene dei suoi sogni. Maria, con le foglie di tabacco, calma il dolore e cura anche le ferite. Ma parla poco di questo, perché ha paura che qualcuno vada a dirlo alle guardie. Maria, quando parla, bisogna ascoltarla attentamente per capire quello che dice, perché ha perso gran parte della capacità di dare forma ai suoni. Le sue parole sembrano arrivare non tanto dalla bocca o dalla gola, ma dal fondo dei polmoni, dalla pancia. Maria non ci vede, e questo è l'unico modo per capire che ci sente. Ecco, quindi noi concludiamo, sì, il nostro incontro. Abbiamo letto anche abbastanza, ma ormai continuo a non capire, capitato, dice, ma non bisogna leggere tanto, se no il pubblico, ma cosa, cioè, se non leggiamo, se non abbiamo il libro, è questo, ma dopo vuol dire che l'hanno già letto. Allora, è una visione della lettura molto riduttiva. Si può leggere dall'inizio. Ecco, quindi tra l'altro appunto ho notato che si può anche leggere più volte, rileggere, sempre ci sono delle sfumature, mamma mia, questa parola non si può neanche più dire ormai, sfumature, molto, molto interessanti, molto belle, questa poesia qua, c'è una poesia, cioè Marco Castagni è molto delicato in queste cose, quindi la durezza dell'ambiente, la durezza del tema non è, diciamo, non viene dimenticata, non deve esserlo, ma è un libro che va al cuore delle persone. e questa è la cosa fondamentale. Grazie della vostra attenzione. So che non volete che io lo dica, ma se avete delle domande. Però è interessante, no? Questa costruzione dei personaggi da così da un casellario giudiziario dove si trovano delle informazioni, da dei documenti, ecco. Sì, hanno funzionato, come dicevo prima, da incipit, cioè da inizio. Mi hanno dato dei dati iniziali, da cui, dato lo spunto, è stato un po' il escamotage che mi ha permesso, mi ha dato un po' l'idea. Poi ne ho scritto uno. Questo racconto qua è nato sul web, cioè io l'ho scritto su internet, poi abbiamo fatto un ebook, ma con circa una decina di racconti. Poi l'editore, questo giovane editore, giovane, sopra i 50 anni, comunque è considerato ancora giovane, è un libraio di Bassano del Grappa, della libreria storica bassanese, che ha deciso di aprire questa casa editrice. Tra l'altro non è un editore a pagamento, come dicevo prima, è un editore che dà la possibilità, insomma, evidentemente sceglie delle cose che poi, questo è stato un rischio, perché finché è il libro classico, però questo, qui la gente non è che trova la storia, ma non è che trova la storia da copia e incolla o la storia classica. Qui c'è una micro storia, ma neanche, sono dei racconti, ecco, dei racconti empatici, che però stanno suscitando più interesse fuori, attorno alla dimensione umana, gentile, insomma anche delicata, no? Sì, sì. Delle figure, delle anime, ecco, dimenticate, che si ricordano. E alla fine viene a capire e a sapere che sono persone come noi, che provano i sentimenti che proviamo noi adesso. E il periodo storico, tra l'altro, volevo sottolineare questa cosa qua con Andrea, dell'Unità d'Italia, quando praticamente si trovano questa Italia che loro spesso non sanno neanche cosa si tratta. L'Italia piazza subito le guardie di finanza nella zona di confine e la gente veramente è in difficoltà, cioè è un periodo di attesa, anche quello, un periodo di crisi, perché poi questo si verificherà con la grande immigrazione. Io l'ho trovato molto simile ai tempi attuali sotto certi aspetti, sotto tutto cambia, nulla sì, cambia, non è che dobbiamo Italia. Partire con il vapore via, però. No, infatti anche qui si aprirebbe sulla nostra memoria storica, purtroppo sarebbe da dire molto, insomma, ecco, comunque posso preannunciare che casomai se la biblioteca ci ospiterà, sì. Stiamo lavorando insieme anche un libro su due. È una domanda di rito di solito, quale sarà il prossimo? Stiamo lavorando insieme, io e Marco, su un libro che tratterà di due figure femminili legate alla Prima Guerra Mondiale, inglesi. Una è la grande esploratrice Freya Stark, che è sepolta ad Asolo, no? Che ha fatto la Croce Rossina durante la rotta di Caporetto, ha lasciato un interessante diario. E l'altra, forse meno nota, è Vera Brittain. Vera Brittain è una scrittrice inglese che nel mondo anglosassone è una celebrità, è morta nel 1970, ha scritto negli anni 30 Testamento di gioventù, qui parla di questa generazione perduta, di questi ragazzi mandati al macello, perché il fratello, capitano Edward, è sepolto nel cimitero britannico dell'altopiano di Asiago a Granezza, sotto il comune Lusiana. Qui io mi sono interessato ed è scaturito un libro, appunto, Britannici sull'altopiano dei sette comuni, qui questa storia è al centro. E allora faremo un lavoro, diciamo, non proprio analogo a questo, ma simile, cioè, avremo dei punti fermi di tipo biografico e faremo anche, ricameremo attorno le nostre sensazioni, le nostre impressioni. E quindi, ecco, speriamo che venga un buon lavoro e magari ci diamo un appuntamento, magari anche qua a Bolzano, che è un tema, penso, anche appunto femminile, molto molto, queste donne eroiche veramente di quel periodo in cui erano figure straordinarie, perché rompevano gli schemi sociali, rompevano le consuetudini, il ruolo tradizionale. Quel periodo è il periodo in cui la donna veramente fa un balzo in avanti incredibile. Anche questo sarà un tema molto affascinante da trattare. E quindi c'è sullo sfondo le croce rossine, le operaie delle fabbriche, ma ci sono poi queste figure che come la Freya Stark, la Vera Brittain, la Margherita Sarfatti, che ha, diciamo, centro favorito l'ascesa di Mussolini, la Rosa Luxemburg dall'altra parte, che è stata una figura, e poi le portatrici carniche. Cioè abbiamo veramente un materiale che sì, è trattato, ma non ancora in modo, e speriamo con questo libro, che speriamo di appunto di pubblicare entro breve, di rompere un po' il ghiaccio e di iniziare questa appunto lettura al femminile anche della Prima Guerra Mondiale, che penso che sia le madri, le sorelle, le fidanzate che sono nell'ombra, ma che hanno sofferto le pene dell'inferno. Vera Brittain ha testimoniato questa sofferenza immane, la perdita di tutti, il fidanzato, gli amici, l'amato fratello, e questo non è quindi un prezzo inferiore a quello pagato dagli stessi soldati durante la guerra, di tutte le nazioni naturalmente. Bene, direi che può grazie bastare. A tutti.